Replay. Per Replay riproponiamo questa sera il primo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore che Radio 24 ritrasmetterà in sintesi nei giorni seguenti al loro svolgimento. Questa prima conversazione, dal titolo Eccentrici si nasce, si è svolta ieri sera a Milano. Sul palco, oltre a Philippe Daverio, l'architetto Mario Botta, il finanziere Francesco Micheli e il filosofo Giulio Giorello. Partiamo proprio dall'intervento di Giorello. Com'è possibile che la creatività, che è ritenuta un colpo di genio, trovi spazio nelle scienze matematiche, così strutturate e metodiche? Mentre d'abitudine noi pensiamo che, per esempio, fare matematica voglia dire cominciate da un certo punto, applicate delle regole, andate avanti e qualcosa verrà pur fuori, ogni tanto invece si cambia punto di partenza e si cambiano regole. E questo fa la ricchezza della matematica. Quindi è sui principi che si gioca, e uscire da un certo sistema di principi vuol dire appunto essere eccentrico, venirne fuori, cercare un'alternativa e poi magari vedere quell'alternativa che tipo di connessione ha con altre forme alternative. Noi siamo abituati, forse questo è un lascito dei greci, a pensare che ci sia un metodo, c'è una strada da dritta, si segue questo in modo lineare. Ma questo è un prodotto tardo della cultura greca. La cultura greca dei momenti eroici tenta strade diverse, contrappone a certi principi dati per scontati certi altri, scopre connessioni inattese nei nuovi campi, e questo è quello che avviene appunto nella matematica, che sembrerebbe invece la struttura più deduttiva per eccellenza. Se poi si va a vedere il mondo fisico, tutti erano convinti che la Terra fosse al centro dell'universo. Gli eccentrici sono quelli che hanno continuato invece a mantenere quell'altra strana, folle idea per cui la Terra è semplicemente un corpo che gira nello spazio. Questa folle idea è diventata poi, con Copernico, l'idea base di un nuovo modo di pensare. Quindi di spesso nella impresa scientifica l'eccentrico cambia, introduce il nuovo diventa una novità riconosciuta, ci vuole fatica, qualcuno ci rischia qualche volta anche la pelle, ma in certi casi questa eccentricità paga. C'è stato un eccentrico che si chiamava Newton, c'è stato un altro eccentrico che si chiama Einstein, c'è stato un altro eccentrico, anche se era un pacifico signore di campagna del Kent, si chiamava Charles Robert Darwin, eccetera, eccetera, eccetera. Ti voglio chiedere ancora di più. Noi ci ricordiamo tutte le prime lezioni di geometria, la dimostrazione della somma dei 180 gradi degli angoli del triangolo. Prendiamo un punto fuori dal triangolo e poi bla bla bla bla bla. La genialità sta nell'aver dichiarato all'inizio: prendiamo un punto al di fuori dal triangolo, non prendiamo un ferro da stiro oppure prendiamo il punto in centro, sommiamo delle cose. E allora la domanda della scienza è proprio curiosa, è questa, mi colpisce sempre, è: esiste una possibilità di creare senza essere eccentrici? Cioè sembrerebbe addirittura che l'eccentricità sia un obbligo della metodologia creativa. Io penso che la componente eccentrica sia essenziale in questo tipo di creatività, perché se non hai quella possibilità di uno sguardo diverso, resta la routine. Certo, la routine è molto importante, si va avanti, si va in cattedra, si prendono le borse di studio, però non si introduce un punto di vista nuovo. Io credo che questa componente di eccentricità sia importante, sia fondamentale nella matematica. È quello che dà un contenuto alla matematica, la rende veramente informativa, e che naturalmente questo poi si ripercuota su tutte le discipline che con la matematica hanno in qualche modo a che vedere. Dunque la creatività è un punto di vista altro, quasi sovversiva. Può far paura la creatività? È sempre ben accolta? La risposta è di Francesco Micheli. Un bambino creativo preoccupa i genitori, un signore creativo in un'azienda preoccupa il capo del personale, l'amministratore delegato, Un creativo, diciamo, a livello cittadino preoccupa il politico, perché la creatività è qualcosa che è diversa perché ti fa uscire dalla norma, cioè è contro in qualche modo alla regolarità di uno Stato ben ordinato, è contro la regolarità di una scuola molto pedantescamente organizzata ed è contro quella situazione per cui bisogna far silenzio, dà fastidio al bambino che strilla, è un diverso. In campo musicale l'abbiamo sempre visto, perché in epoche passate quelli che oggi sono considerati grandi classici, grandi musicisti, sono stati molto ammirati nei momenti in cui erano quasi dei mostri degli enfants prodiges. Mozart è straordinario quando a 7 anni, 6 anni suona con sua sorella di fronte a Maria Antonietta, a quella che diventerà la Maria Antonietta che conosciamo tutti a corte da Maria Teresa, e diventa straordinario quando nel 69 a 13 anni passa da Roma accompagnato da questo straordinario padre Leopoldo, grande teorico del violino, e ascolta il Miserere di Allegri alla Cappella Sistina, che era un testo segreto, cioè nessuno sapeva come fosse e non veniva mai fatto vedere, tanto era complicato e tanto era sacro e misterioso, fa parte in fondo di un certo approccio della Chiesa. E beh, Mozart si mette da parte e lo trascrive tutto creando qualche cosa di miracoloso, cioè è un fatto di genialità totale, ma anche di creatività, perché credo che sia impossibile ripetere se non diciamo interpretando in qualche modo quello che aveva sentito. Allora è interessante secondo me vedere come ciò che è creativo sia diverso, quasi da ghettizzare, quasi da cacciare, perché inquina un ordine, un qualche cosa di prestabilito, e come nello scostamento del tempo questo poi venga dimenticato e addirittura diventi modello. Io non ho mai giocato a Totocalcio, e da poco che non è più 13, non si fa più 13, credo si faccia 14 adesso a Totocalcio, è cambiato anche il numero. Ma quando si faceva 13, un giorno mi feci spiegare che fare 13 era abbastanza facile, era molto difficile vincere del denaro facendo 13, perché se uno faceva un 13 in base alla normalità del buon senso, siccome lo facevano in tantissimi, portava a casa 300.000 lire. Se quei 13 famosi che suonavano in miliardi erano sempre dovuti al fatto che chi aveva fatto quella schedina la faceva in quanto tentava di contraddire tutti i parametri dell'ufficialità, cioè era nell'essere contrari che avveniva la grande fortuna. Questo meccanismo funziona anche nel gioco della finanza? Prima domanda. Seconda domanda, siccome se uno fa così, se vince tutti li voglio bene. E se non vince cosa gli succede? Allora, chi non vince in America ha più chance di chi vince, nel senso che nella scelta di attenzione alla creatività, all'innovazione di quel paese, un imprenditore che è andato male non viene scartato, ma viene anzi reinserito nel gioco, perché si è preso un rischio molto alto e quindi gli dai la seconda possibilità. La finanza è qualche cosa in cui, sul primo punto che dicevi, mi viene da citare una vecchia considerazione di quello che era stato un grande maestro dell'operatività nei mercati finanziari qui a Milano, che era Aldo Ravelli, ed era un uomo buonissimo, lo premetto perché sennò per quello che dico sembra che fosse un grande cattivo. Però diceva: quando i mercati vanno al rialzo tutti guadagniamo, quindi quello che io guadagno vale molto meno perché tutti guadagniamo. Quando il mercato ribassa tutti perdono, solo io guadagno. Quello che io incasso vale enormemente di più. Mario Botta, architetto, ribalta la questione. Siamo tutti creativi per difenderci dalla nostra stessa epoca fatta di consumo seriale. Forse la chiave è proprio qui, dice Botta, imparare a porsi i problemi, non a darsi le risposte. Questa è la strada alla creatività. Siamo condannati a essere creativi. Siamo condannati a essere creativi perché la condizione della globalizzazione vuol dire inevitabilmente omologazione e quindi appiattimento e quindi livellamento. Per cui noi ogni giorno, anche se non ci rendiamo conto, tentiamo di reagire a questo diktat che è quello del mercato, che è quello del globale, con una serie di anticorpi che ognuno di noi si crea attraverso la sua storia, attraverso la sua memoria, attraverso il locale, attraverso degli strumenti che di fatto lo obbligano a essere creativo. Questo cosa vuol dire? Che si sono rovesciati i parametri della logica, non è più per deduzione che puoi dare soluzioni, ma anzi la cosa più interessante è che forse la scuola non deve dare soluzioni, la scuola deve dare problemi, deve sollecitare il pensiero critico rispetto al contesto, perché quando tu sei capace di risolvere tutti i problemi ti resta ancora la non capacità di porre i problemi, che forse è l'elemento più importante. Ti capì? Allora, quanto tempo bisogna stare nella vasca da bagno per diventare creativi? Cioè, quanto è il tempo di ozio necessario per lasciar correre la mente in mille direzioni diverse finché una direzione diventa interessante? La creatività è esattamente l'opposto di quello che si pensa, cioè che è quella roba di quel genio che se ne sta tranquillo nella vasca da bagno e che lì gli vengono bene le idee. Oggi per creatività, diciamo ragionando in termini economici, in termini di crescita, di situazioni nelle quali un paese come il nostro sta restando molto indietro, a mio modo di vedere non può che essere intesa come metodo, cioè è un metodo applicato a un qualche cosa che fa sì che scaturiscano questi fatti straordinari che rendono un paese in grado anche di superare momenti molto difficili. Perché guarda caso, se la gente sta meglio, diventa creativo, produce di più. Il bambino che ascolta musica a scuola, cosa che in Italia non succede più, ha un cervello che cresce meglio. Così come sappiamo benissimo che un bancario o un banchiere che si distrae un momento e passa in un museo, passa a vedere dei quadri, ha diciamo un ritorno che gli produce un miglioramento anche nel lavoro che poi fa. Quindi l'applicazione di un metodo credo che sia la scelta forte, e non scopro niente di nuovo perché poi è quello che è stato fatto nei paesi in cui la classe creativa cresce di più. È tutto per questo replay dedicato al primo di quattro incontri ideati e moderati dal critico, conduttore televisivo e giornalista Philippe Daverio sul tema della creatività. Un ciclo di incontri realizzati con la collaborazione del Sole 24 Ore e che Radio 24 vi ripropone a poche ore dal loro svolgimento. Il prossimo incontro si occuperà del tema Pensare e speculare. Buona serata.